Sottotiro. Storie di mafia e antimafia di Roberto Galullo. Ionetti Paolo, 8 mesi di reclusione e sospensione condizionale della pena. Ionetti Daniele, 1 anno e 4 mesi di reclusione con sospensione condizionale della pena. Ionetti Alfredo, 2 anni e 2 mesi di carcere con sospensione condizionale della pena. Siamo a Forlì, dove la procura, con i sostituti procuratori Fabio Di Vizio, Marco Forte e il capo della stessa procura Sergio Sottani, il 25 maggio ha spedito all'ufficio del giudice per le indagini preliminari il consenso al patteggiamento per la famiglia Ionetti, appunto Alfredo e i 2 figli Paolo e Daniele. Si concluderà verosimilmente così un primo filone dell'indagine che la procura ha condotto contro la famiglia di Alfredo Ionetti, di cui ha accertato il forte legame con il supremo boss di 'Ndrangheta Pasquale Condello. Non tanto e non solo perché nel 2009 il figlio Daniele ha sposato la figlia del supremo Caterina Condello, e non solo perché Alfredo Ionetti è legato da vecchia amicizia con Bruno Morabito, suocero di Pasquale Condello. Alfredo Ionetti e i figli furono arrestati il 13 gennaio di quest'anno a Cesena con l'accusa di continuare a gestire le aziende che gli erano state confiscate ed erano state affidate a 2 amministratori giudiziari, valore 50 milioni. Per rendere semplici e sintetiche le accuse della procura che hanno portato a questo primo patteggiamento, è bene che i radioascoltatori sappiano che Alfredo Ionetti era accusato di continuare a gestire allegramente le attività sequestrate nonostante dovesse esserne assolutamente escluso. È come se, per fare un paragone che possa essere compreso immediatamente, un amministratore di condominio avesse continuato a gestire immobili e conti correnti e flussi finanziari attivi e passivi nonostante fosse stato estromesso dai condomini. È come se un allenatore esonerato avesse continuato a guidare la squadra che aveva un nuovo mister, o come se il capitano di una nave volesse continuare a reggere il timone anche in presenza di un licenziamento da parte dell'armatore. Ma in Italia funziona in altro modo. Buona vita e a domani.